30 marzo è uscito il video Nothing at All con il nuovo singolo estratto dall'album Tornado, e stiamo parlando di Charlie Risso, e quindi si aggiunge un nuovo capitolo al viaggio di musica e parole nei meandri degli stati d'animo raccontati da Charlie Risso nel suo secondo album Tornado. Dopo aver affrontato l'oscurità di un sogno in dark, il suo tornado interiore, dopo aver condiviso sulle note di We Are Heaven lo struggimento per un amore in crisi, è uscito martedì 30, quindi ieri, il video del suo nuovo singolo. Girato in Super 8 e diretto da Marco Pellegrino, il video è un racconto analogico che però appunto poi ci faremo raccontare meglio. Ascoltando questo singolo siamo subito pervasi da una sensazione un po' malinconica e un po' agrodolce, perché ci sono delle sonorità sospese, cadenzate dall'ingresso di un tremolo di chitarra suonata in una maniera molto particolare dalla stessa Charlie, in bilico un po' fra sogno e incubo, e ricordano, infatti questa canzone ricorda molto alcune delle canzoni della colonna sonora di Twin Peaks. Non so se tu l'avevi visto, comunque è anche un, a me inquietava molto, ma era delle canzoni estremamente belle, sì. Esatto. Comunque Charlie è attiva fra la sua città natale, che è Genova, tra Milano e Londra, ed è un artista che effettivamente possiamo definire cosmopolita, che è riuscita a ricamarsi addosso un sound un po' maliante e malinconico, dove si uniscono folk, alternative rock e pop, senza diciamo cozzare tra loro in un qualche modo, no? Si compenetrano perfettamente. L'inglese nelle sue canzoni dà poi a questo progetto un respiro internazionale e le permette di annullare qualsiasi confine geografico o limite musicale. E quindi direi di salutarla, visto che è in collegamento telefonico con noi. Benvenuta Charlie. Buongiorno ragazze, come state? Oh, vedi, bello, perché di solito io inizio l'intervista chiedendo all'ospite come stai, invece ce lo chiedi tu. Noi molto bene, qua a Bologna fa caldissimo, e tu come stai? Io sto bene, grazie, sto rientrando in questo istante in casa, quindi se qualcosa succede alla linea mi dovete perdonare, sono in transito. Tranquilla. Però molto bene, la primavera si sente ed è uno spettacolo. Ma tu ci rispondi da dove? Dove sei? Io sono a Genova, quindi sono nella mia città natale, dove vivo da ormai diversi anni, e quindi lavoro, vivo, le produzioni di ciò che faccio avvengono qui, in uno studio a Genova, quindi è il mio quartier generale. Bello, mi piace quartier generale. Sì, anche a me piace come termine, tipo come controlliamo il mondo. Esatto. Dal quartier generale. Ma Charlie, volevamo chiederti, parlare un po' insomma del tuo singolo che è uscito da poco, e poi ieri è uscito anche il video di questo singolo. Intanto ti chiederei come mai hai scelto queste canzoni in particolare per anticipare l'uscita dell'album. Dunque, questa in particolare, Nothing at All, perché è l'ultimo lavoro che io ho scritto dell'album, che in verità è già uscito ai primi di dicembre, quindi è un singolo che diciamo ravviva rinnova l'invito di andare ad ascoltare appunto il disco Tornado, che è uscito i primi del mese di dicembre. E questa canzone in particolare, perché è veramente la più recente delle mie scritte e quindi mi rappresenta in maniera completa. Io amo molto questo pezzo e devo dire è stata una scelta fatta insieme anche al regista Marco Pellegrino, che ha avuto l'opportunità di sentire il disco. Insieme abbiamo valutato quali pezzi su quali pezzi lavorare per il videoclip. Infatti anche questo video, il video di questa canzone, è molto particolare, un video in analogico appunto. Perché avete scelto di registrarlo in questo modo, e anche un po' che storia ci racconta? Naturalmente, perché sicuramente enfatizza quello che è lo stato d'animo un pochino della canzone, per cui questo momento di difficoltà personale all'interno di una relazione, quando si raggiunge un pochino un momento in cui c'è bisogno di fare ordine tra le proprie cose. Quindi il video enfatizza quel momento di pura gioia che rappresentava l'inizio poi della relazione, quindi è come fosse veramente una ripresa intima fatta da il proprio compagno, mi viene da dire una cosa familiare, di una bella e serena giornata agli albori della relazione, e va in contrapposizione con lo stato d'animo vero e proprio del pezzo, che invece ha comunque una che di agrodolce, di malinconico, perché parla proprio di una relazione logora raggiunta un po' all'esaurimento, ecco. E quindi insomma il brano racconta perfettamente e quindi insomma fa vivere anche molto queste emozioni. Tra l'altro, appunto, come dicevamo anche nell'introduzione, l'inglese nelle tue canzoni conferisce sicuramente al progetto un respiro internazionale. Tu sei perfettamente bilingue, devo dire che questa cosa te la invidio molto, ma come mai appunto la scelta di comunicare in una lingua che comunque, per quanto probabilmente la senti molto tua, però è diverso che cantare ed esprimersi nella propria? È molto vero, molto giusto, però sin dall'inizio io ho scritto in inglese, all'inizio forse più da ragazzina, per quasi nascondermi un po' di fronte a quelli che erano i conoscenti, i miei amici italiani, quindi celare un po' di quel che dicevo. Mi sembrava quasi in qualche modo di conservare qualche cosa di privato per me, perché non avendo padronanza tutti a pieno della lingua inglese. Nello stesso tempo però devo confessare che sono sempre stata affascinata dall'Inghilterra, dove ho vissuto diversi anni, eccetera, e anche la possibilità di comunicare, mi viene da dire worldwide. Mi piace l'idea di avere degli scambi, ma nella vita, in tutto, anche nei viaggi, l'idea di poter essere in qualche modo indipendente, di poter approcciare le persone, di avere degli scambi e far proprio anche l'esperienza altrui. Quindi è veramente un tramite, e naturalmente poi la lingua inglese ha una grandissima valenza melodica, si presta molto e io ne sono decisamente affascinata. Ecco, mi riesce molto facile, mi riesce quasi più facile dire e scrivere in inglese che non in italiano, quindi io scrivo direttamente in inglese, quindi poi vedremo, non si sa mai nella vita cosa potrà accadere. Tra l'altro mi incuriosisce una cosa, non so se te l'hanno mai chiesto, ma tu sogni in italiano o in inglese? Perché una mia insegnante di psicologia mi aveva detto che la lingua che poi senti più tua e quella con cui poi principalmente ti esprimi dipende poi anche dalla lingua in cui sogni. Io sogno sicuramente in italiano, però mi incuriosiva sapere se te sogni in italiano o in inglese. No, guarda, secondo me, allora, è interessante questa domanda, non mi sono mai posta la domanda, perché mi sembra, ti risponderei che sogno a immagini. Bello! Sogno immagini, quindi anche un po' i miei videoclip rappresentano tanto un lavoro che c'è dietro anche alla psicologia del brano, la messa in scena delle sensazioni per creare qualcosa di evocativo attraverso le immagini. Quindi devo dirti che non ricordo veramente dei sogni a pieno con conversazioni, però se devo dirti, probabilmente sarà italiano, ma ti dico sarà perché non ne sono sicura. Per me il punto centrale è sognare molto ad immagini e quindi riportare in scene dei piccoli cortometraggi, ecco, i miei sogni. Molto bello come, insomma, come immagine, sogni a videoclip in pratica quasi. Sogni a videoclip. Io ti volevo chiedere un'altra cosa, insomma, quest'album, ricordiamo, Tornado, è uscito il 1 dicembre 2020, quindi poco tempo fa, ma sono passati 4 anni dal tuo disco d'esordio, che è invece del 2016. Cos'è cambiato in questi 4 anni nella tua musica e nelle tue influenze? Beh, sicuramente c'è stata un'evoluzione, per cui intanto il primo album è servito a sbloccare dei meccanismi, per cui banalmente anche mettere in pratica ciò che io negli anni ho raccolto di scrittura, sia della parte melodica che appunto del testo, dei testi, e quindi concretizzarli in un disco. Questo è stato sicuramente un rompere il primo schema. Poi devo dire l'evoluzione è avvenuta anche tramite metodologie diverse, nel senso che mentre prima mi concentravo molto voce e chitarra, per Tornado ho seguito un po' la preproduzione con Pro Tools, GarageBand, quindi ho importato questo più nei tecnicismi, proprio come dinamica, quello che avevo di voce, di chitarra, ho aggiunto diversi strumenti e mi sono presa cura appunto delle varie sonorità. E dal punto di vista poi dell'esperienza personale, sicuramente Tornado mi ha portato a valutare di più, entrare nel vivo di quello che era il mio momento di transito. Secondo me è stato veramente un momento di transito, lo rappresenta il tornado emotivo, quindi passare attraverso le difficoltà per uscirne anche più forti, anche dal punto di vista creativo e musicale. Quindi è stato un bel salto, devo dire la verità, ero molto orgogliosa di portare, lo trovo un lavoro più maturo e adoro Ruins of Memories, ma Tornado mi è servito per fare un salto in avanti, ecco. E quindi io direi che ci salutiamo con Tornado, così facciamo insieme a te questo salto in avanti. Noi ti ringraziamo per essere stata con noi, ma anche per, insomma, averci raccontato e traspare proprio. Mi sono vista molte immagini, quindi probabilmente oltre a sognare immagini trasmetti anche immagini, quindi è una cosa molto bella. Quindi ti ringraziamo per essere state con noi nel nostro Fujiko Factory. Risentiamoci presto, così magari nel mentre starai più attenta a scoprire se sogni in italiano o in inglese, ce lo racconterai. Volentieri, e grazie alla tua domanda, ci farò veramente caso. Mi fa piacere. Noi ci salutiamo ascoltando il tuo nuovo singolo Tornado. Ciao. Ciao, a presto. Why, oh why, where is this blue wind coming from? Blowing on my head and whispering, dark to sky and pouring rain, it's coming from above. Birds, they cannot sing.